in cielo e in terra voglio solo te. Amen. Vogliamo accomodarci. E vorrei che ringraziassimo in modo particolare questa mattina il team Lode e anche Noemi nello specifico, che ci ha guidato in una maniera eccellente. Ed era sola, avete notato, era sola a guidare, ma che bella guida da parte di Dio questa mattina in Noemi. È bello stare alla presenza di Dio, è bello considerare chi Dio è, e io vorrei partire dal più grande dei comandamenti. A un certo punto nella storia dei Vangeli noi leggiamo che sono andati da Gesù e hanno chiesto a lui qual è il più grande dei comandamenti, e Dio ha detto: il più grande dei comandamenti è ama il Dio tuo. Ama Dio e amalo con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima. E c'è questo aspetto dell'amore, che noi spesso viviamo l'amore inteso come qualcosa di sentimentale, no? Di emotivo. E nei confronti di Dio è necessario vivere questo tipo di amore, un amore che riscalda il nostro cuore. È per questo che c'è scritto che il più grande dei comandamenti prevede che noi amiamo Dio con tutto il cuore, non con una parte del cuore, che siamo innamorati. Addirittura in Apocalisse leggiamo un ammonimento nei confronti delle chiese a non perdere il primo amore, che è proprio l'immagine dell'innamoramento, di quello che fa sentire le farfalline allo stomaco. Però c'è qualcos'altro che io vorrei che noi cogliessimo questa mattina in introduzione al messaggio, è che Dio ci invita attraverso il più grande dei comandamenti ad amarlo con tutta la nostra mente. Con tutta la nostra mente. E noi sappiamo quanto la nostra mente è disturbata, è distratta, è presa da tanti pensieri. Io vi vedo tutti concentrati su di me, che mi guardate, però non posso sapere quello che pensate. Mi guardate, mi osservate, qualcuno annuisce, ma probabilmente qualcuno con la mente è totalmente altrove. Io voglio invitarti questa mattina ad amare il tuo Dio con tutta la tua mente. E sapete come amiamo Dio con tutta la nostra mente? Dedicando ogni pensiero a Lui e arrendendo ogni nostra percezione, concezione, ogni nostro pregiudizio anche nei Suoi confronti. A volte il problema che noi abbiamo con Dio e con la Sua parola è che noi veniamo con un'idea davanti a Dio e abbiamo difficoltà di accettare quella che è invece la verità che ci viene trasmessa dalla parola. Perché? Perché quella verità è in contrapposizione con quella che è la nostra concezione, con quelle che sono le nostre convinzioni. E Dio ci dice questa mattina: amami con tutta la mente, arrendi tutti i tuoi pensieri e abbraccia la piena rivelazione di chi io sono a livello mentale, perché se passa a livello mentale, allora arriverà anche al cuore e arriverà anche alla tua forza, all'anima. È così importante e cruciale che passi per la mente, perché in Romani al capitolo 12 dice che noi siamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Quindi questa mattina il Signore vuole darti dei pensieri nuovi, vuole allinearti con la Sua parola, e il tuo allinearti alla Sua parola permetterà a te di amarlo pienamente, in una maniera corretta e completa. Siamo pronti per questo? Vogliamo pregare per questo? È un tempo nel quale il diavolo cerca di distrarci in mille modi diversi. Noi abbiamo la nostra mente lucida, sobria, concentrata su di Lui. Amen. Questo è ciò che vogliamo essere. Preghiamo un attimo. Padre, la nostra mente vogliamo che ti appartenga al 100%. La rendiamo a te. Ogni preoccupazione, ogni pensiero, ogni turbamento che viene da ansie e paure che ci sono nella nostra mente, io prego che siano arrese a te in questo momento. Io prego ogni preconcetto, ogni pregiudizio, ogni convinzione sbagliata, ogni ragionamento umano che possa essere messo da parte per lasciare spazio alla rivelazione completa di chi tu sei e di quello che tu dici di te stesso è quello che tu ci riveli attraverso la tua parola. Le nostre menti sono tue ora, Gesù. Amen. Amen. Vogliamo orientarci, come abbiamo già cominciato a fare domenica scorsa, sull'eternità. È un concetto così importante che noi accogliamo nella nostra vita, perché veramente non ti puoi dire cristiano se non hai una rivelazione della vita eterna e dell'eternità. L'abbiamo letto in Geremia ed è scritto così tante altre volte che Dio è il creatore, è la luce, è il salvatore, è il re, è l'onnipotente, ma è anche l'eterno. Dio c'è prima che noi fossimo creati. Dio c'è da eternità passata ed è un concetto molto, molto difficile per noi afferrare, eppure è davanti ai nostri occhi sempre. Quando esci da questa sala basta che alzi lo sguardo e hai a che fare con l'eternità. E gli scienziati hanno difficoltà, no? a capire e costruiscono telescopi sempre più grandi e si danno opportunità di cercare di arrivare alla fine, al limite dell'universo. Perché? Perché la concezione di eternità non è qualcosa che ci appartiene, però Dio vuole che noi comprendiamo che quello che ci viene rivelato in Genesi 1 è verità. Dio c'è prima che ogni cosa fosse. Dio era nel principio. Dio non è partito con noi. Dio già c'era e ha dato l'avvio alla creazione e poi siamo arrivati noi. E lui c'era, c'è e ci sarà per sempre. E l'invito che lui ci offre è la possibilità di vivere con lui per l'eternità. Questa è la salvezza. La salvezza non è altro che avere il riscatto della nostra disubbidienza, del nostro peccato, della nostra autonomia rispetto a Lui, per afferrare la grazia di Cristo Gesù che ci lava di ogni peccato e ci dà accesso ad una vita eterna, una vita che è il prolungamento della vita attuale. La scorsa settimana abbiamo potuto un po' parlare di queste, oggi voglio addentrarmi ancora di più sul concetto di eternità, perché nella misura con la quale noi abbiamo rivelazione dell'eternità, potremo vivere orientati su questa terra in ogni tempo, in ogni epoca, in ogni anno, attraverso ogni stagione. E Dio sa quanto siamo travagliati, anche la Chiesa è travagliata in questo tempo e a volte disorientata, ma se abbiamo una buona percezione, una buona conoscenza dell'eternità, questi tempi non ci sorprendono, questi tempi non ci disorientano, questi tempi non ci mettono in turbamento. Gesù lo ha detto e l'abbiamo letto la scorsa volta: non siate turbati, il vostro cuore non sia turbato. E poi aggiunge: io vado dal Padre, vi preparo delle dimore, poi verrò. E dove sarò io, sarete anche voi. C'è una vita eterna. La scorsa settimana Vito mi ha contattato per chiedermi qual è il titolo del messaggio che vorresti che mettessimo su YouTube. E io non sapevo ancora che titolo dargli, poi gli ho dato il titolo Il 2022 in prospettiva, no? Che dice un po' tutto, non dice niente, però dà l'idea che il 2022, esattamente come abbiamo visto insieme la scorsa settimana, deve essere vissuto in prospettiva dell'eternità. E poi ho scritto a Vito: che ne pensi? Dici, ah, forse ci starebbe bene ricordati che devi morire. Ricordati che devi morire. Però non l'abbiamo scelto, ok? Però il senso è questo: ricordati che devi morire, e il morire è guadagno, l'abbiamo visto la scorsa settimana. Non deve essere un tabù tra noi credenti, dobbiamo poter parlare della morte e essere consapevoli che è un passaggio che vivremo tutti, nessuno escluso. Ed è un passaggio glorioso per chi crede in Cristo Gesù. Che cos'è? Cosa ci aspetta? Ti sei chiesto mai che cosa avverrà dopo che muoio? Cosa avviene nel momento in cui io chiudo gli occhi e il mio corpo abbandona la sua vitalità, il battito cardiaco si ferma. Che cosa avviene in quel momento? Cosa avviene quando tu muori? Cosa c'è dopo? E una maniera molto semplice per dirla è questa: quello che avrai deciso di vivere su questa terra, il tuo credere in Gesù, il tuo stare con Lui, il tuo vivere in comunione con Lui, il rinunciare alla tua autonomia, beh, quello andrà avanti ad un livello elevato, all'ennesima potenza, perché sarai con Lui, vivrai con Lui per l'eternità. E se invece su questa terra non avrai creduto in Gesù, avrai vissuto in autonomia e non avrai voluto la sua compagnia, la sua presenza nella tua vita, beh, dopo la morte quello che avverrà è che tu vivrai esattamente secondo la tua scelta un'eternità distante da Lui, lontano dalla sua presenza. Quello che noi sappiamo e che la Bibbia ci rivela è che la presenza di Dio è la condizione di ogni bene, di ogni prosperità, di ogni bellezza, di ogni abbondanza, di ogni ricchezza. Dio è un Dio buono, abbondante, che è generoso e che porta vita, e ogni cosa che tu vivi di bello su questa terra, beh, viene da Lui. E quindi va da sé che l'inferno che cos'è? È un luogo di assenza della presenza di Dio, della sua abbondanza, della sua prosperità, della sua vita, ed è un luogo di tormento, è un luogo buio, è un luogo scuro, un luogo di ansie, un luogo di paure, un luogo dove c'è punizione eterna, perché è lì che verrà condannato Satana e tutti coloro che, uniti a lui, avranno scelto la strada della ribellione, del peccato, senza voler avere una salvezza e una riconciliazione con il Padre per mezzo di Cristo Gesù. È cruciale quanto avviene all'atto della morte, e noi non possiamo ignorarlo. Apocalisse 21. Qui voglio leggervi quello che è l'ultimo capitolo della Bibbia, una parte, una porzione dell'ultimo capitolo della Bibbia, che poi anche l'ultimo capitolo dell'escatologia. Questo è ciò che avverrà alla fine di tutto. Alla fine di tutto c'è scritto, questa è la visione di Giovanni, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Ascoltate ora le ripercussioni della presenza di Dio, della sua vicinanza, del suo essere re, di essere in comunione con il suo popolo. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà, ascoltate bene, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. La parola di Dio si conclude con quello che in realtà noi troviamo all'inizio della parola di Dio. Non so se ti è mai capitato di voler leggere velocemente un libro e andare al primo capitolo e poi alla lettura dell'ultimo capitolo e a farti tu un'idea. Beh, con la Bibbia lo puoi fare. Ti puoi fare perfettamente un'idea leggendo il primo capitolo e l'ultimo capitolo, perché quello che Dio ha stabilito all'inizio, Lui lo vuole ripristinare alla fine. Lui vuole essere il tabernacolo. L'Eden è proprio l'immagine dell'unione di Dio con l'uomo, e passeggiavano insieme ed erano in un luogo di letizia, è un luogo di delizia, è un luogo dove i sensi erano accesi da ogni bellezza, da ogni profumo, da ogni colore, e Dio ripristinerà tutto questo con nuovi cieli e nuova terra. Ci sarà un nuovo mondo, e l'abbiamo letto, questo nuovo mondo sarà benedetto, non sarà più schiavo della maledizione della terra, della maledizione del peccato. Non ci saranno più cataclismi in questo nuovo in questa nuova terra, in questo nuovo mondo e in questo nuovo cielo. Non ci sarà ingiustizia, non ci sarà l'avidità dell'uomo, non ci saranno guerre, non ci sarà tante delle cose che noi vediamo oggi, non ci sarà dolore, non ci sarà ingiustizia, non ci sarà persecuzione. E poi c'è un'altra cosa che io vorrei che noi considerassimo questa mattina, che oltre ai nuovi cieli e alla nuova terra, noi avremo dei nuovi corpi. E la scorsa volta abbiamo accennato a questo, e molti di voi erano entusiasti di questa verità, ed è per questo che vorrei leggere con voi quello che c'è scritto dei nuovi corpi che avremo, perché è meraviglioso che noi ci possiamo proiettare verso l'eternità che Dio ha stabilito per noi, non solo un nuovo mondo senza inquinamento, senza tasse da pagare. Senza un cartellino da timbrare. Senza duro lavoro e fatica. Un mondo nel quale tu vivrai l'anno sabbatico eternamente. Il riposo eternamente. Pensaci, io per questo vado lento con le mie parole, perché spero che tutti voi lo state immaginando, lo state sognando con me, perché è qualcosa di meraviglioso e non possiamo perdere questa prospettiva. Ci viene presentata così tante volte nella Bibbia che perderla sarebbe un danno e non ci farebbe vivere bene su questa terra. Invece afferra queste promesse, perché sono per te e ci sarà un nuovo corpo. Ve lo voglio leggere in 2 Corinzi dal capitolo 4, la fine del capitolo 4 e l'inizio del 5. C'è scritto questo: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ascoltate, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo, oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. L'Apostolo Paolo descrive il nostro corpo, il mio corpo, il tuo corpo come una tenda. Che cosa ne facciamo quindi del nostro corpo? Che cosa ne facciamo di questa terra? Ora, la terra è passeggera e passerà. Il corpo è passeggero e passerà. Ma ciò che noi viviamo qui è determinante. Il tuo corpo è importante. Abbi cura del tuo corpo. Mantieni in salute il tuo corpo. Ma su questo già ci preoccupiamo tanto, vero? Forse non devo ricordarvelo. Ci prendiamo cura, stiamo attenti. Cerchiamo di mangiare cose sane, cerchiamo di fare attività sportiva, cerchiamo di essere cauti nei tempi che viviamo. Abbiamo amore per il nostro corpo, ce ne prendiamo cura, ma sai cosa? C'è qualcosa ancora più importante rispetto a queste cose che tu puoi fare, devi fare del tuo corpo. Tu devi considerare il corpo che oggi hai, la tenda che hai, quale mezzo e strumento a disposizione per la gloria di Dio. Dio ti ha dato un corpo nel quale muoverti e agire. Dio ti ha dato una bocca. Parla. Parla con la tua bocca le parole di Dio. Dio ti ha dato una bocca per testimoniare agli altri queste verità. Usa la tua bocca per spandere l'Evangelo attorno a te. Dio ti ha dato degli occhi. Guarda, osserva. Osserva la vita di uomini fedeli, osserva la vita di testimoni che hanno vissuto una vita terrena gloriosa con un peso eterno. Osserva, osserva le cose giuste, guarda nella giusta direzione. Dio ti ha dato degli occhi per leggere la sua parola, per meditare sulla sua parola, per documentarti, per recepire e far tue le informazioni che riguardano Dio. Usa i tuoi occhi in una maniera consacrata. Dio ti ha dato delle mani, Dio ti ha dato delle mani, servi con quelle mani, servi gli altri. Gesù ci ha lasciato un esempio, lui ha lavato i piedi ai suoi discepoli e poi ha detto a noi: fate la stessa cosa, servi con le tue mani, prodigati affinché il tuo corpo sia uno strumento per la sua gloria, affinché quello che fai possa avere una ripercussione eterna. C'è qualcuno che domenica scorsa mi ha mandato un bellissimo messaggio e mi ha chiesto: pastore, hai parlato dei tesori in cielo, come si fanno tesori in cielo? Tutto ciò che tu fai oggi qui su questa terra e sai che ha un peso eterno, glorioso per l'opera di Dio, beh, quello sì, quello è farti tesori in cielo. Quando tu servi, anche solo spostare una sedia, lavare un pavimento, gestire un mixer, sistemare un microfono o andare a visitare qualcuno, andare a portare qualcosa a qualcuno, essere generosi con le tue mani, ogni gesto guidato da Dio che ha, sai che ha una ripercussione eterna, quello è il gesto che Dio ti invita a fare, quello è il motivo per il quale lui ti ha dato il corpo che ti ha dato. Dio ti ha dato delle gambe. Vai dove Dio ti chiede di andare. Vai nei posti forse più scomodi. Vai nei luoghi dove ti è difficile andare, dove non vorresti andare. Soprattutto usa le tue gambe, non rimanere seduto. Dio ci invita, fin quando abbiamo la possibilità di muoverci e utilizzare il nostro corpo, di farlo per la gloria sua. Vai per incontrare persone, vai per riconciliarti con quelle persone con le quali hai ancora un bagaglio, hai qualcosa da perdonare. Fai cose che hanno un peso e una ripercussione eterna. Il Signore ti ha dato una mente. E quindi riprendo quello che ho detto dall'inizio. Usa la tua mente per l'opera di Dio su questa terra. La tua mente creativa, nella tua mente nascono progetti, nella tua mente possono nascere iniziative, nella tua mente c'è la possibilità di creare cose che tu metterai in piedi nei giorni a venire, ma li devi pensare prima. Riscatta la tua mente, non ingombrare la tua mente con cose che ti fanno perdere tempo. Il maligno sarà molto interessato a farlo. Viviamo in un'epoca nella quale le droghe non sono più quelle pillole o quelle sostanze che si iniettano, sono ancora purtroppo utilizzate, ma la droga peggiore, più comune, nella quale tutti noi viviamo, è l'intrattenimento. L'intrattenimento delle nostre menti, l'intrattenimento del nostro tempo, l'intrattenimento dei nostri corpi, e c'è qualcuno che è intenzionato a intrattenerci pur di non farci alzare per vivere tutte quelle cose che Dio ha stabilito per noi. Stai attento alle serie televisive, stai attento ai videogiochi, stai attento all'intrattenimento. È buono, è utile se tu lo fai in una maniera contenuta per rilassarti in una giornata lunga, estenuante, di lavoro e di impegni, ma non fare in modo che la tua esistenza sia relegata a quelle cose. Lo dico in modo particolare ai ragazzi, ai giovani: il Signore vi sta chiamando per raggiungere la vostra generazione, ma voi dovete distinguervi. E se state davanti a uno schermo le ore e non vi date modo di alzarvi da quella sedia e andare a fare le cose che Dio vi chiama a fare, persone non avranno l'opportunità di sentire da parte vostra la verità della salvezza in Cristo Gesù. Non vivere da drogato, sii libero, cammina, muoviti, agisci, crea, pensa, che il tuo corpo sia uno strumento per la sua gloria. Amen. Romani 12 dice: non l'ho messo nei miei appunti, ma ve lo voglio leggere. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi, in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Io sono grato a Dio per la nostra Chiesa, perché abbiamo alle spalle 50 anni di storia, di persone che hanno servito, di persone che hanno creato, di persone che si sono sacrificate, persone che oggi non ci sono più. Però grazie a Dio, perché se non ci fossero state, probabilmente noi non saremmo qui. Persone che sono state generose con le loro mani, con il loro tempo, con i loro talenti, con il loro servizio. Il Signore ha un piano per noi come Chiesa del 2022, di portare avanti tutto questo per chi verrà, fin quando Gesù tornerà. Il corpo di ciascuno di noi, dalla prima all'ultima fila, dal più giovane al più anziano in mezzo a noi, è un corpo prezioso, perché Dio ha stabilito, come ha stabilito per Geremia e come abbiamo pregato per Zora, che tu vivessi su questa terra per uno scopo, per adempiere alle opere che Lui ha precedentemente preparato per te. Quella è la vita piena che Dio ha per te. E attraverso questo tipo di vita tu sarai di benedizione per molti. Perché? Perché viviamo ancora in questo mondo? Perché Gesù non è ancora tornato? Perché non abbiamo nuovi cieli e nuova terra? Beh, perché Dio è paziente, ve lo voglio leggere. In 2 Pietro, al capitolo 3, versetto 9, c'è scritto: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Sapete, Gesù ha stabilito che il suo rientro ci sarà nel momento in cui ogni nazione, ogni popolo, ogni persona su questa terra venga a conoscenza della verità. Lui vuole tornare in un luogo nel quale le persone hanno avuto l'opportunità di scegliere. E forse questo tempo si è già stabilito. Io non credo che è dato a noi sapere quando questo tempo avverrà e ritardare perché abbiamo una percezione di quando questo è avvenuto o meno. Dio può tornare oggi, potrà tornare domani e sarà il tempo giusto e sarà congruo a quello che Lui ha già stabilito. Ma sai una cosa? Lui ha stabilito che tu vivi ancora e che il mondo sussiste ancora, perché l'eternità è lunga. E Lui vuole che tutti siano salvati. Noi esistiamo come Chiesa e tu sei parte di questa famiglia per portare avanti questa missione. Te lo voglio ricordare oggi. La tua missione è fare del tuo corpo uno strumento nelle mani di Dio. La tua missione è essere parte di una famiglia e di un esercito che si prodiga affinché ogni nazione, ogni popolo possa ascoltare l'Evangelo della salvezza, affinché a ogni persona sia data la possibilità di entrare per la porta stretta che conduce alla presenza del Padre e affinché ad ogni persona sia data la possibilità di sperimentare in nuovi corpi glorificati e in una nuova terra riscattata l'eternità della gloria di Dio alla sua presenza. Questa è la nostra visione e questo noi vogliamo portare avanti. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Se sei d'accordo con me e se vuoi dire questa mattina: il mio corpo, Gesù, è tuo, le mie mani sono tue, i miei piedi sono tuoi, la mia bocca è tua, i miei occhi sono tuoi. Se tu questa mattina dici: io voglio arrendere tutto di me, non solo come abbiamo fatto la scorsa settimana, questo nuovo anno che ci sta davanti, ma proprio anche ogni azione, ogni opera che noi possiamo compiere in questo nuovo anno, allora io ti chiedo di alzare le tue mani anche da casa e vogliamo arrendere a Lui i nostri corpi, vogliamo arrendere a Lui i nostri talenti, le nostre capacità, affinché possiamo essere zelanti in ogni opera buona che Lui ha stabilito per noi. Padre, grazie. Grazie perché possiamo prendere sul serio la Tua parola, le Tue promesse. Grazie perché ci dai rivelazione di cose che non sono ancora avvenute, ma che avverranno. Grazie Gesù perché possiamo vedere la morte con occhi diversi. Grazie Padre perché siamo benedetti di una salvezza che dà a noi ragione di poter vivere su questa terra con uno scopo, con un obiettivo, con un proposito. E io prego per ogni persona in questo luogo o a casa che decide questa mattina di arrendere le proprie membra, ogni parte del proprio corpo, che Gesù tu possa fare di noi strumenti per la gloria del tuo nome. Guidaci, facci andare dove tu vuoi che noi andiamo, facci parlare con le tue parole, facci agire nella tua generosità e nel servizio, facci agire come hanno agito quegli uomini e quelle donne di fede che leggiamo nella parola o che ci sono stati di testimonianza anche in mezzo a noi come Chiesa. Che il 2022, il 2023, ogni anno che tu hai stabilito davanti a noi, possa essere un'occasione che si rinnova per noi per portare avanti l'Evangelo e per vedere tante altre persone salvarsi. Gesù, questo è il nostro desiderio. Serviti di noi, Padre. Ci arrendiamo a te, Padre. Alleluia. Amen. Mentre tieni gli occhi chiusi, ti voglio leggere questi versi. Fai tu queste parole. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Padre, io prego che noi possiamo essere quel popolo che tu ti sei appartato e che è zelante nelle opere buone che tu hai stabilito per noi. Amen. Mentre manteniamo i nostri occhi chiusi, io voglio ancora pregare per chi non ha la certezza della salvezza eterna. Forse mi stai seguendo da casa in questo momento, forse hai ascoltato e visto questo messaggio in differita. Beh, io credo che non a caso hai ascoltato queste parole e non a caso ti sei trovato anche in una posizione scomoda a chiederti cosa ci sarà dopo la morte per me. E il Signore ti dice: oggi è il tempo per la tua salvezza. Affida a me la tua vita. Io ti do il perdono per dei tuoi peccati e voglio cominciare un nuovo inizio con te, nel quale tu cammini con me e noi viviamo in relazione, in comunicazione. E affinché a partire da oggi tu possa cominciare un percorso che si prolungherà per l'eternità e tu sarai il benvenuto nel mio regno, nella nuova terra, nei nuovi cieli, alla mia presenza. Se tu vuoi questo, io ti chiedo di ripetere con me una preghiera. E vorrei che tutta la Chiesa, che tutti noi, possiamo ripeterla insieme per sostenere coloro che fanno questa preghiera per la prima volta. Ti invito a fare questa preghiera, anche se sono le mie parole, falle tue. È una preghiera nella quale chiederai a Dio di perdonarti dei tuoi peccati. È una preghiera nella quale chiederai a Dio di cominciare una nuova cosa in te. È una preghiera nella quale chiedi a Gesù di lavarti e di darti la salvezza eterna per grazia. Se questo è il tuo desiderio, ripeti con noi e ripetiamo insieme, Chiesa. Padre Santo, mio Creatore, ti invito nella mia vita. Perdona i miei peccati. Dammi un nuovo inizio. Dammi la salvezza. Dammi la salvezza eterna. Ti chiedo di perdonarmi per ogni ribellione, per ogni scelta autonoma, per la mia scelta di averti abbandonato o non averti cercato. A partire da ora, Gesù, voglio camminare con te, voglio seguirti e voglio la vita che tu hai stabilito per me. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo fare un applauso a tutti coloro che hanno fatto questa preghiera per la prima volta. È un applauso che facciamo perché siamo contenti per la scelta. E in virtù di questa scelta ti invitiamo a continuare a camminare, perché il meglio è davanti a te. E la sicurezza su questa terra dipende dalla salvezza in Cristo Gesù. Vogliamo adorare il Signore insieme. Forza, Chiesa, alziamo le nostre voci in adorazione.